Black in the morning, 'cause I'm the only one you know in the world that won't be home. You've fallen for one of my classic pranks. Bazinga. Bazinga. Whee! Bazinga. Bazinga. Bazinga. Bazinga. Bazinga. Oh, yeah. Whee! Bazinga. Bazinga. Once again, you've fallen for one of my classic pranks. Bazinga. Bazinga. Bazinga. Bazinga. Bazinga. Bazinga. Bazinga. Ma parte tutto da solo qua. Oh mio Dio. Ciao Onorio, come va? Ah, buonasera, buonasera. Nello staccare la sigla ho fatto partire altre due cose. Insomma, buonasera, buonasera. Non so se hai notato che c'è un ritorno di microfono. C'è un ritorno di microfono, quindi devo abbassare l'audio in studio. Adesso non c'è più il ritorno di microfono. Lo senti tu ancora? Forse eri tu che parlavi, cioè il gain del microfono è... Ora basta parlare di gain. Mi rientro nel cervello. So che c'è il gay pride, non c'è bisogno di parlare sempre di gain, basta. Ma non parliamo di gay, già ci ha pensato Diamond l'altro giorno. No, più volte, diciamo, abbiamo toccato l'argomento. Ma perché stiamo cominciando? Intanto salutiamo gli ascoltatori. Soprattutto i gay. Salutiamo gli ascoltatori gay. In questo momento sono abbastanza esigui, gli ascoltatori in generale. Figurati gay. Se è vero che c'è un gay ogni 8 persone, una persona su 8 è gay, una cosa del genere, questa persona vuol dire che per un ottavo, questa persona che in questo momento ci ascolta, per un ottavo è gay. Ah, ciao. Ciao, chiunque tu sia, tu hai un ottavo di omosessualità. Ah, secondo me è Maria Cristina. Maria Cristina è gay. Ci stai ascoltando, Maria Cristina? Fammi uno squillo, fammi sa capire. Mentre contemporaneamente, probabilmente le persone non ci stanno ascoltando perché stanno guardando i quarti di finale che abbiamo qua io sullo schermo. Germania-Grecia. E finora l'unica cosa, ora ci arriverà praticamente uno squillo quando qualcuno delle due formazioni segnerà. Probabilmente arriverà, non lo so, l'inno tedesco, quando lo scopriremo, insomma. Hai pronostici per questa partita? Pronostici. Io penso che la Germania sia la formazione, diciamo, favorita, per quanto si sia visto, diciamo, nella fase iniziale del torneo. Quindi, bene o male, magari oltre ad essere la favorita, è anche agguerrita, perché, diciamo, viene da parecchio tempo che non vince, credo. Da milioni di anni, forse, che non, la Germania più, non... Più o meno tre lustri. È da tre lustri, 15 anni. Anche di più. No, anche di più. Forse ha vinto in 5 Italia, lustri. Italia 90, quindi è 12... Ma l'hanno vinto. Hanno vinto Italia 90, la Germania ha vinto il mondiale Italia 90. Non la sai questa storia? Adesso lo ricerco, farò una ricerca. No, sono abbastanza sicuro. Sono abbastanza sicuro, lo sai perché? Perché loro considerano la canzone Notti Magiche inseguendo un gol, non mi ricordo come sia, forse Un'estate Italiana, che è la canzone di Gianni Nannini e Bennato, l'inno dei mondiali d'Italia 90, la considerano come il loro inno, come noi consideriamo, diciamo, popo. Juve, storia di... Noi come persone, ovviamente sì. Noi come italiani è quello, no? L'inno della nazionale, storia di un grande... L'inno della nazionale italiana è Juve, storia di un grande amore. Interessante. Hai ragione. I mondiali vinti dalla Germania sono Svizzera 1954, Germania 1974 e Italia 90. Quindi i mondiali, perché ne ha più di uno. Io pensavo che ne avesse tipo uno o due. Ah, lo sai che cos'è? Ne hanno tre. La Germania, quando era divisa, nella Germania Est e Ovest, aveva vinto solamente una parte Ovest, se non sbaglio. E poi quando si sono riuniti, la Federcalcio ha detto: vabbè, allora ve li abboniamo tutti alla Germania. Invece dovevano toglierli e assegnarli all'Italia, come hanno fatto in Italia quando fu la storia del calcio scommesse. Insomma, quello che si è suggerito. No, il calcio scommesse di Calciopoli. Infatti, calcio scommesse. Sappiate che anche se si arriva terzi in classifica, si può vincere lo scudetto, il campionato. Inspiegabilmente, solo gli interisti. E probabilmente nel corso della serata avremo ospite in studio un interista, una nostra vecchia conoscenza, il signor Anzalone Roberto. Proprio sarete tutti contentissimi proprio che lui sta arrivando. Ma comunque è meraviglioso davvero, seguire la nazionale è una delle cose più belle che si possa fare, anche soprattutto se, diciamo, ti dà soddisfazioni. A me, sinceramente, parlando proprio, diciamo, liberamente, la nazionale italiana mi sta dando ben poche soddisfazioni. Ma poi diventiamo così tutti assieme, diventiamo tutti nazionalisti, patriottici, tutti col tricolore in mano, con la maglietta azzurra. Esatto. Tu hai la maglietta del Paris Saint Germain. Io tifo, sono forse l'unico italiano che tifa l'Italia, nazionale italiana, con la maglietta del PSG. PSG, si dice così, Paris Saint-Germain. Con la maglietta del Paris Saint-Germain. Cercare l'inno del Paris Saint-Germain. Vabbè, farà Paris Saint-Germain, qualcosa del genere, secondo me. Intanto stavo dicendo, la cosa bella è quando adesso la generazione dei nostri genitori aveva come ricordo più bello della nazionale italiana proprio la vittoria ai mondiali dell'82. Noi adesso abbiamo quella del 2006 come ricordo meraviglioso legato alla nazionale. Tutti noi ci ricordiamo chi avevamo al lato quando Grosso ha spedito quel rigore in porta. Tutti Calciopoli, noi... la Juve in Serie B. Calciopoli, la Juve in Serie B. Questi sono fatti, diciamo, antecedenti e inutili e non ci interessa. Però dico, tutti ci ricordiamo chi è, con chi eravamo, cosa stavamo facendo. E soprattutto tutti ricordiamo, bene o male, questa canzone che ci ha accompagnato. Non proprio questa versione, ma quasi. La canzone è lei. I'm gonna find them off. A seven nation army couldn't hold me back. They're gonna rip it off, taking their time right behind my back. And I'm talking to myself at night because I can't forget. Back and forth through my mind behind a cigarette. Siamo accorti che stavamo masticando. No, io non ho la bocca piena. Però hai sentito urlare un ah! Ero io che mi sono accorto che mancavano 5 secondi. Vabbè, non è successo nulla. Volevo fare un saluto a Onorio che ci sta ascoltando. Probabilmente è l'unico anche a giudicare dal nostro indice di ascolti di questa sera. Questo perché? No, perché? C'è Antonio Verde. Ah, c'è Maria Cristina. Ah, hai visto? Ah, meno male. Allora l'indice sta crescendo. Forse, come dicevo precedentemente, la trasmissione ha questo piccolo picco negativo dovuto al fatto che ci siamo assentati per 3 settimane. Abbiamo mandato in onda delle repliche, magari a qualcuno sono piaciute, a qualcuno no. Insomma, molti mi hanno, diciamo, contattato. Rimproverato. No, che rimproverato. A me mi no? hanno rimproverato. A te ti hanno rimproverato per il fatto che non facevamo trasmissioni nuove, ma... Insomma, lo abbiamo fatto per un buon motivo. Abbiamo tutte e due una materia in più sul libretto in queste 2 settimane, quindi... Sappiate che ho la media del 28. Gabriele ha la media del 28, io ho una materia in più nel libretto. Non vi dico con che cosa ho preso 21. quello... Però può dire, dai, a me non interessa nulla. Ho una media del 23, non è una grandissima media, però fondamentalmente l'importante è laurearsi, arrivarci. Anche perché già lavoricchio, quindi... Anzi, se volete contattatemi, sono a disposizione per qualsiasi tipo di prestazione informatica e sessuale, soprattutto se siete donne. Dico soprattutto, oh, perché non Dio. Si sa mai. Sempre. Anche perché voglio dire, i giovani d'oggi questo dobbiamo piegarci. Ne parlavo pomeriggio. Io parlo sempre troppo. Tu... Aspetta, piegarci in che senso? Dobbiamo piegarci non per prenderla nel di dietro, dobbiamo piegarci, diciamo, al mercato. Senza... Per quando ti cade la frutta a terra, no? No, quando ti cade la frutta, quando ti cade la saponetta nella doccia, stai attento, potrebbe essere una trappola. Al mercato ti può cadere la frutta a terra. Al mercato ti cade la frutta, stai attento, sotto Maior, diceva quello di Aldo Giovanni Giacomo. Insomma, uno deve stare sempre attento a quello che gli succede, perché visto che ci sono così tanti giovani promettenti, giovani non promettenti, giovani con voglia di fare, giovani con voglia di sistemarsi e di crearsi una piccola famiglia magari in un futuro... Ci sono parecchie fregature che ci vengono affibbiate da vecchi che a loro volta sono stati fregati in passato. E questo qui non è una cosa abbastanza buona, diciamo, perché se uno vuole rilanciare l'economia la deve rilanciare con i giovani, e fregando i giovani per... Come fanno nel resto d'Europa, d'altronde. Esatto, tutto il resto d'Europa rilancia l'economia grazie ai giovani, alla ricerca, alla, non lo so, all'innovazione. Noi invece siamo ancorati, ancora ancorati, come diceva tipo il secondo album degli Escaviva. Siamo ancora ancorati e non ci muoveremo mai. Stavi per combinare un casino allucinante. Ho messo un pugno a un bicchiere di birra davanti al mixer. Devi essere, non devi essere così nervoso. No, sono nervoso perché ho paura che questa partita, l'Italia... Hai paura della nazionale, vero? Io sì, t'ho visto ho paura nervoso. Che può andare male, no? E poi tu lo sai, c'è Roberto Anzalone che ha detto che ci verrà a trovare, e quindi ve l'ho già anticipato, e sinceramente ho paura che lui... Goofy contro l'Italia, perché lui non tifa Italia, non tifa nazionale italiana, perché è interista e non c'è nessun giocatore dell'Inter nella nazionale italiana. È stata una discussione, ma non è che è colpa della nazionale italiana se non c'è nessun giocatore dell'Inter nella stessa nazionale. No, perché secondo lui ci dovrebbe essere un giocatore di ogni squadra, cioè vuol dire che Balzaretti per il Palermo, che ne so, Sculli per la Lazio, non so dove gioca. Forse nella Lazio, hai ragione, forse l'hai beccato, non poi, lo so. Poi, non lo so, Del Piero per la Juventus, no? Tutti no, lui giocatori. Dice la nazionale deve essere una rappresentazione delle squadre di Serie A, quindi ci vorrebbe un giocatore di ogni squadra di Serie A. È una cosa che non si è mai vista, anche perché verrebbe fuori una nazionale davvero pessima, soprattutto in difesa, penso, perché la difesa della Juventus è una delle migliori del mondo, credo. Quindi, Non parli di parte, no? No, vabbè, oltre ad essere un tifoso juventino, parlo anche da esterno, perché io vedo effettivamente che la Juventus è stata la miglior difesa in Europa, se non sbaglio, nei campionati nazionali, no? O sbaglio? Non lo so. Non lo so, io ricordo di sì, ricordo che è stata la miglior difesa, cioè la squadra che ha preso meno gol nel campionato nazionale di appartenenza. Comunque c'è Antonio Verde che ti dice: Vincenzo, ministro dell'istruzione subito. Grazie, compa, ti voglio bene. Per quello bene. Che hai detto prima, e poi ha detto: io tifo Grecia. Tu tifi Grecia, tutti tifiamo Antonio, Grecia. Antonio, spiegaci il motivo per cui tifi Grecia. E lo diremo a tutti gli ascoltatori. Io già lo capisco, vediamo se ho ragione. Cioè, tu tifi Grecia perché se noi passiamo con l'Inghilterra, stavo dicendo con l'Italia, se noi passiamo con l'Inghilterra, arriviamo, diciamo, a confrontarci con la vincitrice di questo scontro, che è appunto, diciamo, la Grecia stessa, che non è questa grandissima squadra. Però guarda, è al 30esimo, ritmi decisamente più blandi dopo la fiammata della Germania, che ha sfiorato la rete in più occasioni. Quindi questa... Ma non hanno ancora segnato, perché vuol dire che hanno una solida difesa. La Grecia si chiude in difesa, è una cosa bruttissima la chiusura in difesa. E c'è Mario che ci sta ascoltando. Ciao Mario, benvenuto. Ciao Mario. Stiamo un po' cazzeggiando per cominciare bene la serata. È da 3 settimane che non facciamo bazzina. Beviamo un po' di birra, stiamo cercando di capire come funzionano i microfoni. Infatti poco fa parlavo con la webcam e ho capito che non era il microfono. E ho sbagliato e quindi ho preso questa cosa qua lunga. Diciamo che ce lo siamo dimenticati, perché ovviamente, come dicevamo precedentemente, siamo rimasti molto. Per aumentare il gain del microfono ho toccato i capezzoli di mio fratello. Poi ho sbagliato, ho detto ah scusa, io ho goduto, fosse... quindi sì, sì. Come un pazzo, guarda, proprio male. Prestazioni omosessuali incestuose questa sera, quindi buonissimo, una serata. Antonio Verde mi parla proprio con un ritmo non proprio lento. Ma ha detto scrive. Non solo sarebbe un pugno in faccia alla Merkel, e poi non ha detto più nulla. Ah. Antonio, che cosa succede? È da due ore, non solo sarebbe un pugno in faccia alla Merkel, cosa accade? Ma Antonio, anche va? Magari un pugno in faccia alla Merkel, va. Voglio dire, non voglio è che dire. Uno va, certo, certo. Per questo ti fa Grecia, capito? Quindi questa sera sono tutti, probabilmente i nostri soliti ascoltatori, sono ad ascoltare, a guardare la partita Germania-Grecia, quando la possono seguire bene con noi. Contropiede improvviso della Grecia con Samaras, ma Bad Stuber gli chiude la strada. Insomma, stupidate, insomma, in questo momento stanno succedendo nella Grecia. Noi è meglio che torniamo a parlare di nazionale in un secondo tempo e magari mandiamo una canzone meravigliosa che in queste settimane ho imparato ad amare più che altro. Questa colonna bentornati. Sonora è spettacolare. Bentornati in studio, devo rimettere. È spettacolare questa colonna sonora. Perché? Sei uno scemo praticamente. Sono un ritardato, non un ritardato non proprio idiota. Comunque, ragazzi, abbiamo scoperto tramite fonti che onore di Giovanni, che praticamente c'è un sito che è Rai TV in cui potete vedere le partite della che Rai Sport fa vedere degli europei in diretta live in streaming, e noi ce la guardiamo in diretta con voi e la commentiamo assieme, magari vediamo. Praticamente c'è un giocatore della Germania che ha fatto un tiro micidiale. Senti, si sente. Piedi di Ozil, le azioni individuali, piedi di Ozil. Una volta è andato al tiro Sami Khedira. Ma che dire? Khedira è Khedira il tizio, diciamo. Khedira io non l'ho mai capito. Che dire? Che vuol dire? Ci sono però compagni di squadra, addirittura Neuer vicino alla linea di mezzo. Cioè, il portiere a centrocampo è una cosa davvero colossale, voglio dire. Lam. Schürrle. Sembra una parolaccia. No, è bello proprio la faccia di questo Khedira. Cazzoranes. Che poi la Grecia ha dei nomi davvero allucinanti. Tutti Gunis, Ganis, Ganagian. No, tipo Strogloglovic. Strovabic, Ivilicic. Quello lì non è la Grecia. Sto scherzando. La Croazia magari. Karagounis, Paspatopoulos, Parapatopontolos. Tutti questi nomi strani. Secondo te esiste una persona più lenta di Thiago Motta? No, secondo me no. Fammi vedere la partita. Molto ci tieni così tanto a vedere questa voglia partita. Di vedere la partita, la mettiamo in diretta, la commentiamo in diretta, tanto siamo uno di spazi per inserirsi. Oh oh, hai visto? Lamma per Schürrle. La partita in diretta radiofonica, penso non è la prima volta che si fa, perché io l'ho poi visto non è fare anche una partita così importante. C'è Roberto Anzalone là fuori. Lascialo fuori. Un minuto e poi vengo. No, valla a prendere che io tengo qua un altro po' di discussione. Chiudi questo qua, chiudilo. Suo cross va benissimo, chiudiamo. Va bene, vai ad aprire a Roberto. Mentre Roberto sta per tornare in radio, il gran ritorno di Roberto, io vi metto una canzone, così ci organizziamo piano piano per il prossimo, diciamo, discorso. Prega perché il mondo va più veloce di me. Sì. Bentornati in studio, bentornati ancora una volta. La Germania ha segnato. La Germania ha segnato, 39esimo. Philipp Lahm, a voi probabilmente non interesserà, e soprattutto non interesserà Roberto, che è tornato. Che è arrivato, è tornato. Con noi stasera, ciao, Roberto, un applauso a Roberto. Bentornato tra di noi, un applauso che si chiude male. Noi benissimo. Ma è caldo, ragazzi. Io sto sudato, tu mi fai questa domanda perché mi vedi scolare, diciamo, liquido. Ma io sto bene perché sono sceso poco fa. Sei sceso, io sono qua, io sono recluso, diciamo, quindi sto sudando non poco, però diciamo, dico troppe volte diciamo questa sera, non so se l'hai notato. Diciamolo. Insomma, questa trasmissione, diciamo, sta uscendo un po' un fiasco questa sera, anche perché, come abbiamo appena tra detto, Germania in vantaggio, tra primi Grecia in crisi, la Grecia in crisi, primi sprazzi dell'estate, diciamo. Poi a me invece pure Heineken. Yeah, Heineken. Heineken. E quindi la gente ma oggi no, ma stasera no, ma domani sera. Come stasera no? Stasera c'è Inigo, c'è Giovanni Cacioppo. Ma non come il sabato e la domenica. Ah, assolutamente sì, questo di qui c'è Giovanni Cacioppo, no? Il quando, comico stasera? Il comico stasera, sì. Stasera c'è domani. Il comico Giovanni Cacioppo. No, è stasera, domani c'è Max Gazzè. Mannaggia la miseria. Perché devo andare a Giovanni Cacioppo. Giovanni Cacioppo è meraviglioso. Con il Cacioppo Channel. Lo sai che Giovanni, quello quella di testa, palata. Banda testa di cane, non so se te lo ricordi. Sì. Ma passiamo a un clip di Giovanni Cacioppo, vediamo. Quella testa pelata mi viene voglia di dargli tante botte. Sì. In faccia, in testa. Una bella lucidata come la palla del bowling. Sì, una figata proprio con il vetril, proprio con il vetril. Poi gli fa infezione e muore, tipo. La banda di testa di cane, Giovanni Cacioppo episodio 5, vediamo cosa si tratta. E questo è Giovanni Cacioppo. Vediamo, non lo so. Ciao Rock. Ciao, com'è andata? Benissimo. Ho fatto un affare. Non avevo dubbi, sapere un amico. Un amico sì. Ho speso un po' di soldi in più, però ho preso una cosa buona. €800, guarda qua. Commodore 64. Oh, proprio un gioiello questo qua. Che scherzi. Eh? Ciao. Ciao. Com'è andata? Ciao. Male, male. Come male? Abbiamo girato tutti i panifici del paese per trovare ste minchia di crackers per il compote. Ma è un bordello. Nessuno ne sa per niente, va? Niente. Questo è proprio un segno del destino. Vuol dire che non dobbiamo fare entrare nessuno per colpo, guarda. Giusto. Ma che cos'era? Era una piccola clip fatta era malissimo. Per fare una pausa per chiacchierare con Roberto. Ah, c'è quella cosa del motorino, è famosissima questa cosa del motorino. Noi l'abbiamo vista live. Adesso torno giù in Sicilia a fare i corsi di aggiornamento perché che uno magari prende dall'abitudine alle quali non è abituato. Sono a capo tutto noi. Stavo dicendo, io ho fatto tutta la carriera da meridionale, ho fatto neonato, bambino, adolescente, le scuole medie, le superiori, il militare, le prime fidanzate. E mi ricordo il periodo dell'adolescenza, dove frequentavo una comitiva di adolescenti, visto che eravamo coetanei. A un certo punto, questi amici miei adolescenti, nel giro di un paio di settimane, chi prima e chi dopo, hanno comprato tutti quanti il motorino. Ora io, per rimanere aggregato al gruppo, ho dovuto comprare un motorino pure io. Solo che, non avendo grosse cifre da poter spendere, perché io già a 3 anni ero disoccupato, mio padre a 3 anni mi ha scritto a collocamento. Io a 18 anni avevo 15 anni di disoccupazione. Ero primo in graduatoria in tutta Europa. A me mi volevano a Bruxelles come testimone della disoccupazione del mezzogiorno. Comunque, ho comprato questo motorino usato, l'ho pagato poco. Ora non sto qui a vantarmi come si fa solitamente quando uno compra una roba usata. Dai, è stato un affare, un'occasione, era come nuovo, l'ho tenuto in garage, col cello, eccetera, eccetera. Io, nelle mie cose, sono stato sempre coerente. L'ho pagato poco perché faceva cagare. Se avessi avuto i soldi, ne avrei comprato uno nuovo, non è che avevo questa vocazione dell'usato. Oltre al motorino, ho dovuto comprare degli accessori. Ho dovuto comprare un casco, che in una settimana la polizia statale mi ha fatto 4 verbali. Gli mandavo uno stipendio ogni mese. Allora ho detto, meglio che compro il casco, almeno sono tranquillo. Allora sono andato in un negozio, ho chiesto un casco al commesso. Il commesso ha detto, sì, abbiamo diversi modelli, cioè questo da cross, questo integrale, questo con la visiera. Ho detto, senti, non perdere tempo. Detto, mi devi dare il modello più economico che avete. E mi ha venduto questo qua. in fibra di cotone con elastici rinforzati. Se cade ti spacchi la testa, faccio, però almeno la strada non ti fa le multe. Detto, perfetto. Poi mi avanzavano 2000 lire e ho preso gli occhiali coordinati. A sto punto mi sto accorgendo che mi manca un ulteriore attrezzo. Fate finta che mi manco un secondo che lo prendo, eh? C'ho dei collaboratori che sono razzi, non come il Papa Ratzinger che è tedesco, razzi italiani. Stai vedendo, siccome mi avanzavano 2000 lire, ho preso pure gli occhiali coordinati, che già che servono gli occhiali servono a proteggere gli occhi quando uno va in moto. E metti che uno corre in moto, ti va un insetto nell'occhio, specialmente qua a Francavilla, ho visto che... magari uno si distrae, perde l'equilibrio, può causare un incidente. Non era il caso del mio motorino, che considera, viste le prestazioni, a me i moscerini invece di andare negli occhi mi tamponavano da dietro. La mattina per andare a scuola cercavo di metterlo in moto sto motorino, però considerata l'età e le condizioni, più che metterlo in moto era una forma di rianimazione. Se faccio una modifica tecnica, questo è un ricordo del mio lavoro precedente, che prima di fare il comico vendevo i pelapatate alle fiere, facevo il dimostratore. Vendevo il kit completo, pelapatate, padella antiaderente e cosa per tagliare il limone a spirale, che nessuno ha mai saputo che cazzo serve sto cosa. Io, che uno lo compra, lo porta a casa, chiama gli amici, guarda quello che ho comprato. Tagli il limone a spirale, l'amico dice, ora che fa questo limone? Non si può né spremere né mettere nell'insalata. Vabbè, però è bello, eh. Dopo tre limoni lo butti nel cassetto e rimane lì 20 anni. La mattina solitamente andava così. Per i nuovi ascoltatori, state ascoltando Giovanni Cacioppo nel motorino. Scusate il fumo che era un poco ingolfato. Un motorino 36 marce. facciamo un culo così, guarda, ok? Erano 36 marce, prima a salire poi a scendere. C'avevo la gamba sinistra che era il doppio della destra. Infatti meno di un chilometro conveniva andare a piedi. Però ogni volta gli amici miei dicono 36 marce, quando corro, come vado? Ho detto, fa cagare. Specialmente in salita. E quando incontravo una salita era così. Bellissimo vederlo live, questo qui a Partanna qualche anno fa, davvero, a parte il fatto che fondamentalmente diciamo fa sempre le stesse cose, spero che abbia diciamo rinnovato il suo repertorio, no Gabriele? Ah, penso che dopo tanti anni qualcosa di nuovo ci sarà. Ci sarà sicuramente, noi quando l'abbiamo visto 5-6 anni fa forse. Ah, anche di più. Anche di più di 5-6 anni fa, è stato davvero, è stato simpatico diciamo Johnny Cacioppo, è stato uno dei pochi che è arrivato con la sua macchina e ci ha lasciato l'autografo, ti ricordi? Sì, che è arrivato con la macchina praticamente una Hyundai, praticamente una Hyundai, era azzurra se non sì, sbaglio. Sì, sì, sì. Questo tizio è arrivato a Santa Margherita, doveva andare a Partanna, è arrivato a Santa Margherita in piazza e praticamente doveva arrivare a Partanna, non sapeva la strada, non conosceva la strada e c'era un signore anziano margheritese che gli ha detto: "Ma scusi, ma per la strada che porta a Partanna?" E lui ha detto: "Aspetta, ma tu sei Giovanni Cacioppo?" Dice: "Sì, sono Giovanni Cacioppo, ma la strada che porta a Partanna." Dice: "Ma tu non la sai sta testa di cane?" E lui ha risposto così, goliardicamente ha risposto: "Alu Buddaro, non lo sa." Testa di cane è un altro dei personaggi, faceva lui a Zelig, no? Alu Buddaro non lo sa, mi dica la strada per Partanna. E poi gliel'ha detto, insomma è arrivato un po' in ritardo, però è stato davvero uno show simpatico, anche perché lui, come ti dicevo, una persona alla mano, poi quando siamo andati a trovarlo nel retro del parco, del palco parco, era tranquillissimo, sì, ci ha fatto l'autografo, ci ha stretto la mano e poi era con noi in coda al conso, se ti ricordi, per andarsene era messo in coda con noi vicino alla macchina e lui suonava perché c'era gente assai e doveva passare. È stata una cosa vero simpatica, perché pochissime volte che sono andato a guardare dei comici, ma anche a Memphis l'altra volta eravamo andati a vedere tipo quel gruppetto di comici, ti ricordi, che c'era le risate per fare bene, come si chiamava, per la salute, cosa del genere. Erano davvero simpaticissimi e alla mano, insomma, persone che raccontavano del fatto che avevano mangiato, dice: "Abbiamo mangiato qua in Sicilia, voi in Sicilia mangiate parecchio", dice, "ma che fai, solo il primo mangi, e qua prenditi questo", e ti portavano la pasta con le melanzane fritte, rifritte, una cosa per loro pesantissima, per noi è tipo normale amministrazione, niente di particolare, niente di particolare, per loro era una cosa già allucinante, mangiare quel piatto di pasta gigante, insomma, e facevano battutine su questo. Poi c'era anche Deborah Villa, ovvero la Patty di Camera Caffè, che non è così brutta come la dipingono, diciamo, in questa sitcom. Ti ricordi che abbiamo fatto impressione questa? Ma è carina, diciamo. Dal vivo è più carina. Dal vivo è più carina. Lì la è lei che si fa brutta. Si fa brutta fa la scorbutica. La scorbutica, la cessa, diciamo, perché è la cessa del. Fa la cessa. Non è un gesso, ma ti posso assicurare che dal vivo gesso. È un gesso nel film. Camera Caffè è un gesso. Camera Caffè è un gesso, perché Camera Caffè è un gesso? Perché gli si fa bruttissima. Ah, lei a Camera Caffè non c'è. Io pensavo Camera Caffè come, diciamo, programma, un cesso. No, non è per nulla così, perché è un bel programma, è uno dei pochi, diciamo, sitcom made in Italy. A quanto ho capito, se non sbaglio, Gabriele, forse l'hanno pure addirittura copiato da... Sì, l'hanno fatto, diciamo, in tantissimi stati. L'hanno fatto in Grecia, l'hanno fatto in Spagna, l'hanno fatto addirittura nelle Filippine. Ma successivamente al fatto che l'hanno fatto da noi, oppure non lo so. Dirti la verità, non lo so. Non lo so, però diciamo che o ci hanno copiato o abbiamo copiato. Questo, diciamo, avviene sempre nelle trasmissioni. Ce n'è un altro bellissimo, io mi ricordo, a proposito di sketch comici, ritornando al discorso degli sketch comici, tra cui, cioè, ricordiamo appunto quello di Giovanni Cacioppo, un altro bellissimo che era quello di Antonio Albanese, riguardante il motorino, no? Era bellissimo, guardate, sentite, anzi, guardate. Io anni fa ma le fate entrare tutti, le fate entrare. Ti ha accompagnato il WWF? Va bene, ma... Ti dicevo, anni fa, perché ho tante passioni, ho comprato un autoradio da 14 milioni e ci ho fatto costruire l'automobile attorno. Una Fuego viola, una bellezza, sai? Un 4WD 16 valvole HF, minchia, intercooler, intercity, bro. Ma non la uso, si sporca. Avevo altre passioni come tutti. Avevo l'altra mia passione, il mio motorino rollerball. Sono abbastanza incazzato. Non c'è più. Me l'hanno fregato. Mi ricordo, era una bella giornata. Volevo festeggiare. Mi sveglio come tutti i pomeriggi, tranquillo. Mangio, esco, scendo le scale, arrivo sotto. Niente. Non c'è niente. Dove di solito stava posteggiato il mio motorino. Vuoto. Nulla. Deserto. Pensato, ma chi? Ma come? Ma che cazzo? Mi hanno fregato il mio motorino, ora listen to me. Io giuro al Signore che spererei che tra le voci fosse il ladro. C'è un figlio di nessuno che ha rubato un motorino, no? Listen. Cosicché possa sentire di persona quanto ho da dirgli. Cornuto, sappi che quello era il mio motorino. Tu puoi nasconderlo, puoi riverniciarlo, puoi raschiare il telaio, puoi venderlo e tenertelo, puoi farci ciò che vuoi. Ma resta sempre il mio motorino. E a ricordartelo saranno le mie maledizioni. Forever. Le maledizioni che si attaccheranno al telaio del mio motorino, su un manubrio e sotto la sella, nel fanale posteriore e in quella anteriore. Così che si spenga in una notte tutta buia. Mentre incroci un grosso tigre. Guidato da un camionista ubriaco, morto di sonno e per di più inglese, che per questo tiene la sinistra. Mentre era il mio motorino, va. Rollo. Nei freni che ti si staccheranno all'improvviso, quando ti accorgerai che la macchina davanti a te è inchiodata, una volta compressa e schiacciato nel suo bagagliaio, ti sorgerà il tremendo dubbio che qualcuno ti abbia maledetto. Le maledizioni si attaccheranno al sellino che salta da via mentre stai salendo al volo e un ferro nel culo ti insegneranno a mettere più il naso tra i cazzi miei. In più prego madre natura di infradeciarti le grappole d'emorroide. Di farti sputare sangue la mattina appena alzato, di spappolarti gradualmente il fegato, di farti sordo, muto ma non per sempre, minchia. Muto ma non per sempre. Che la voce ti venga sporadicamente per pochi secondi nel quale tu sparo dalle cazzate in mano. Era il mio motorino, va. Cornutazzo, ti accechi in occhio e ti renda daltonico l'altro. Ti doti di un olfatto dove ovunque tu percepisca solo odore di merda. Che ti doti di una gobba e se già ce l'hai che in questo caso te l'accentui, cosicché l'unica cosa che tu riesca a vedere siano i tuoi coglioni. Ed infine, grandissimo stronzone, che è uno stormo di piccioni incazzati, ti scambi per l'assessore all'ecologia, riempiendoti integralmente di scagazzate, cosicché tu debba scappare col mio motorino, però ingolfato di merda. Buon viaggio, cornuto. Era il mio motorino, va. Rollerball. Questa di Andrea Albanese è fantastica. Tu. Anche perché tu l'hai ripetuta così tante volte che la sai a memoria. È bellissima. E mi hai pure infastidito non poco la volta che me l'hai raccontata. Il mio motorino, era il mio motorino. Manca motorino, manco fatto di merda. Certa gente non ha timore di Dio, dice gente su Facebook. Vabbè, meglio non aver timore di Dio che aver timore, non lo so, di altre cose. A proposito di questo, volevo mandare questa canzone che mi ha fatto riflettere non poco in questi giorni. Wow. Mai più mi chinai e nemmeno su un fiore, più non arrossi nel rubare l'amore, dal momento che inverno mi convinse che Dio non sarebbe arrossito rubandomi il mio. Mi arrestarono un giorno per le donne ed il vino, non avevano leggi per punire un blasfemo, non mi uccise la morte ma due guardie bigotte, mi cercarono l'anima a forza di botte, perché dissi che Dio imbrogliò il primo uomo, lo costrinse a viaggiare una vita da scemo. Nel giardino incantato lo costrinse a sognare, a ignorare che al mondo c'è il bene e c'è il male. Quando vide che l'uomo allungava le dita a rubargli il mistero di una mela proibita, per paura che ormai non avesse padroni, lo fermò con la morte in vento le stagioni. Cercarono l'anima a forza di botte, esse furono due guardie a fermarmi la vita, è proprio qui sulla terra la mela proibita, e non Dio ma qualcuno che per noi l'ha inventato, ci costringe a sognare in un giardino incantato. Ci costringe a sognare in un giardino incantato. Mister Tamburino. Mi piace un sacco questa canzone. A chi è che non piace questa canzone? Se a qualcuno piace questa canzone, se ne può andare gentilmente da questo studio e dal mondo, perché... Guarda, già abbiamo Roberto Anzalone. Non che, ti piace questa canzone? Che non tifa Italia. Quindi, se non gli piace manco Battiato, vuol dire che è proprio male. Ti piace Battiato, Robè? No. Come no? Non è che non mi piace. C'è qualche canzone che non mi piace. Tipo quale? Tutte. Ti piace Perdono di Battiato? Sì. Perdono, se che fatto è fatto, sì. Io te lo chiedo di Battiato. No, vabbè, ma io la volevo dedicare questa canzone a un amico che magari abbiamo tra gli lui ha frainteso, ecco, più che abbiamo detto che ha frainteso, ma che vabbè, cioè, tu diciamo che siccome tu non sei di facile comprensione, probabilmente è facile che qualcuno ti fraintenda, diciamo così, va bene, che non mi capisce, ecco. Esatto, è facile che la gente non ti capisca, e quindi lui magari dedicare questa canzione a un maschio è una cosa un po' gay, però se ti fa piacere è una cosa un po' omosessuale. vediamo. Dedichiamo questa canzone a Onorio da parte di Roberto. Io però chiedo scusa, regala il mio sorriso, io ti porgo una rosa. Su questa amicizia nuova pace sì, sarà che so come sono, infatti chiedo perdono. Se qualche volta ho fatto, io però chiedo scusa, regala il mio sorriso, io ti porgo una rosa. Su questa amicizia nuova pace sì, rosa. Perdono con questa gioia che mi stringe il cuore. A 4-5 giorni da Natale, un misto tra incanto e dolore. Ripenso a quando ho fatto io del male. E di persone ce ne sono tante, buoni pretesti, sempre troppo pochi. Tra desideri, labirinti e fuochi, comincio un nuovo anno io chiedendoti perdono. Se quel che è fatto io però chiedo scusa, regalo il mio sorriso, io ti porgo una rosa. Su questa amicizia nuova pace sì, rosa. Che so come sono, infatti chiedo perdono. Se quel che è fatto io però chiedo scusa, regalo il mio sorriso, io ti porgo una rosa. Su questa amicizia nuova pace sì, rosa. Perdono. Dire che sto male con te è un gioco, un misto tra tregua e rivoluzione. Credo sia una buona occasione, con questa magia di Natale, per ricordarti quanto sei speciale. Tra le contraddizioni e i tuoi difetti, io cerco ancora di volerti. Dodo, cosa devi dire a Onorio? Dai, c'è stato un piccolo frainteso tra me e te, però non succederà più. Però sai come la penso io, quindi non è inutile girarci intorno. Ma cos'è successo praticamente? Ma niente, c'è stato, diciamo, vabbè, era pure tardi, erano le 2 del mattino, quindi ero pure... Eri ubriaco con me? No, ero pieno di sonno, quindi... Eri ubriaco di sonno? E che cos'è successo praticamente? Avete litigato? No, ma abbiamo litigato di scemenze, di cretinaggi, proprio... Niente, niente di che, però lui magari se l'ha presa, quindi... Con l'occasione che hai la possibilità di dirlo in pubblico, insomma, che in tutto il mondo, quindi in tutto il mondo, diciamo a Onorio ci dispiace. Onorio, mi dispiace, dai, per il fatto che Roberto sia qua con noi, è un dispiacere mio, sto scherzando. No, però sai com'è, uno sbaglia a parlare, vabbè, dai, ritorniamo amici, dai, visto che ti ho dedicato questa cosa, perdono. Dillo, cos'è successo, dillo. No, vabbè. Cosa gli hai detto? Onorio? Parlavamo di calcio. Sì, di calcio con la R. Parlavamo di calcio, visto quello che tu e io sappiamo pure. Sì. Che cosa hai detto di male? Che essendo che nessun giocatore dell'Inter gioca in nazionale. Quindi? Era questa. Era solo vediamo questa. Se Onorio è contento di questa. Io tifo un'altra squadra, cioè, per esempio, c'è l'Italia e l'Inghilterra, io tifo per l'Inghilterra, non tifo per l'Italia. Perché sono internazionale, che si sappia, io sono internazionale. Ora, siccome io sono cittadino del mondo. Io ti avevo detto precedentemente, se tu vuoi partire per la Croazia, ti pago pure il biglietto di sola andata quando ti levi di mezzo i coglioni. E infatti, se proprio non dovete fare Italia, vattene in Croazia e tifi Croazia. Te ne vai in Croazia, ormai Thiago la Croazia è uscita. Thiago Motta è straniero, Thiago Motta. Non sì. È che sia italiano. È oriundo. Gioca in nazionale. È un oriundo. Camoranesi giocava in nazionale, ma era straniero. Era Camoranesi. Sì. Quindi, perché è morto? Perché adesso un è giocatore morto, dell'Inter era. Non gioca in nazionale. Perché non ci sono giocatori. No, c'è Pazzini, c'è Palombo, c'è Ranocchia. Allora, aspetta, tu convochi Andreoli. Tu convochi in nazionale un giocatore che ha fatto cacare in campionato solo perché devi prendere un giocatore dell'Inter, diciamo. Sì. perché tutti sì e l'Inter no? Che dovrebbero dire quelli del Parma, che non c'è nemmeno un giocatore del... No, non c'è nemmeno un giocatore del Parma. Del Novara. Non c'è neanche un giocatore del Parma, c'era Giovinco mai della Juventus. Quindi non può. Ma Giovinco è tornato dalla Juventus. Sì. E ora quindi, è nella Juve, cioè, quindi ci sono sette giocatori della Juve nazionale. Perché la Juve sì, e allora lui me l'ha spiegato, cioè, perché premiano i migliori. Non è giusto, questa è discriminazione razziale verso i confronti di una squadra, tra l'altro l'Inter. Non andiamo nei particolari, però grazie a Marco Materazzi abbiamo vinto il mondiale. Grazie mille per questa tua espressione. E che dire di Fabio Grosso, scusami, giocava nel Palermo Fabio Grosso. Ma poi ha giocato nell'Inter Fabio Grosso, quindi era già giocatore nell'Inter. E se ti dicessi che gioca nella Juve così, tanto per... In questo momento Fabio Grosso è giocatore della Juve in scadenza di contratto. Se lo vuoi lo puoi prendere a giocare pure qua nella Santa Margherita, ma ormai è scadenza. Però non è giusto che tutti sì e un giocatore dell'Inter no. Questo va bene, questa è una tua piccola opinione. Solo tutti i juventini e io devo tifare la nazionale tutti i juventini. No. Nel 2006 ti ho detto che c'erano tanti juventini e abbiamo vinto lo stesso, quindi... Grazie a un interista. Grazie a un interista. Va benissimo. Intanto noi vi lasciamo. E salutiamo Mila Suki, che sarebbe Monica Alain. Mila Suki. Che ci sta ascoltando. Put down with the edge of-